sazia pur la tua rabbia nel sangue mio, ma quando sparso l'avrai dalle feroci vene, fiera crudel, ne lambirai la rene.